Il sabato del villaggio. Ci siamo, 17,7 minuti tra qualche secondo, è proprio il momento di dare la linea a RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ci siamo, la terza ora del sabato del villaggio, possiamo dire il nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, Web TV e Social TV. È arrivato Daniele Bellasio. Sì, possiamo risentire la Bon Franchette. Ti è piaciuta la Bon Franchette? Molto anni 80, villaggi bella, turistici. Era bellissima, non le animazioni. Pezzo. Tu andavi nei villaggi turistici? No, io non ci andavo mai. Ma sai che si vede? Era questa la cattiveria. La cattiveria, che ho detto, l'ho appena twittato. Ma possibile che lui entri in studio prima? Ma non adesso... è una cattiveria questa qua. Non andavi nei villaggi turistici negli anni 80? Ti manca un pezzettino. Come hai finito la frase? Saresti stata meno rigida. Meno rigida, sì. Però potete scriverci ai nostri account @MartaCagnola oppure @DiBellasio. Potete anche usare l'hashtag cancelletto RadioTube e anche quello del sabato del villaggio ISDV. Potete anche scriverci per difendermi, perché mi tratta male. Ma come mi tratta male solo, prima di entrare in studio? Manca una fettina dell'educazione sentimentale degli italiani della tua età, degli italiani e delle italiane della tua età. Il villaggio turistico. Vabbè, meno male che mi consolerò. Saluto Jerry Calà, per esempio. L'hai vista? Professione vacanze. Almeno quella. Su quello sono preparatissima. Ma no, non è di questo che dobbiamo parlare. Mi consolerò da ottobre in poi, guardando un sacco di serie TV, ancora più di quelle che io non guardi. Cioè, finalmente lo farai legalmente, diciamolo. No, dai, ma per la Guardia dici? Di Finanza avvisiamolo da settembre. Ma Marta Cagnola, non si può dire. Ma non è vero. Non è vero. Poi io te le mandano le case tutto. Di produzione perché fai quel lavoro di privilegiati. Allora, però intanto da settembre sono abbonata a qualsiasi cosa già. Sì. Poi sì, effettivamente un po' le vedo in anteprima perché comunque c'è certo. la possibilità di vederle in anteprima. Se poi proprio qualcuna proprio casca dal camion, è legittima difesa. È legittima difesa. Ma da ottobre basta. Arriva tutte le cattive abitudini, arriva Netflix. Allora, ci questa manca mattina... Starbucks e siamo un paese normale. No, perché Daniele Bellasio, basta che una roba arrivi dall'America e non capisci niente. No, basta niente. Che arrivi. Possibile che arrivino. Ecco, vedi, mi fai pure sbagliare. Cioè, arrivano in tutta Europa le cose, in Italia no, perché è un mercato particolare. Ma perché? Perché una opinione ce l'aveva Jimmy Fallon. Yeah. Il grande Jimmy, io sono innamorata pazza di Jimmy Spiega Fallon da anche tanti a mia mamma anni. Che ci sta ascoltando chi è. Ma guarda, adesso mando a tua mamma una foto di Jimmy Fallon, così sarà d'accordo con me. Bellissimo sì. ragazzo, erede dei grandi conduttori dei late night. Letterman. Ormai adesso il re, uno dei re perlomeno, è lui, è Jimmy Fallon. Marzo 2014 disse, ho scoperto che Netflix non viene lanciato in Italia, per questa ragione, ecco qua, Jimmy Fallon. Netflix says it's delaying its launch in Italy because the country's internet is too slow and unreliable. Ooh. And Blockbuster heard that and they were like, ciao Italianos, we're back baby, Blockbuster! Allora, guarda che ha ragione, non è mica uno scherzo. No, perché appunto Netflix diceva che c'era la velocità di internet serve era troppo lenta, non era affidabile. Sì, ma il commento di Jimmy Fallon, per sì, chi certo. avesse capito l'inglese, era così. Blockbuster dice, che bello, italiani, eccoci, ciao, siamo Italia. Tornati. Invece anche Blockbuster, invece diciamo. È arrivato Palestre. Anche Netflix questa mattina. Ora, dobbiamo essere però un po' serie, dobbiamo dire che ci sono già dei servizi in Italia che permettono, c'è Infinity, ci sono. Sono partiti. Quindi dobbiamo stare a vedere cosa offrirà di diverso Netflix, dobbiamo vedere quali saranno ad esempio i prezzi del servizio e poi delle grandi serie di Netflix come House of Cards, come Orange is the New Black, che invece sono in già. Italia sono state i diritti sono stati venduti alle TV tradizionali che siano via però magari via in lingua originale via, le puoi vedere subito, per esempio. Guarda, dobbiamo. Sai cosa c'è? Però io lasciamo qua, decidere alla concorrenza. Starò no? qua almeno e vediamo. Vigilerò. Proprio qua fisicamente. Qua, sì, qua fisicamente in studio. Nel monitor dello studio Netflix. Più. Si può. E no, beh, si può. Da qua a ottobre, dai, facciamo anche altre cose. Nel frattempo, sì, però, vigiliamo. Però stamattina mi sono divertita perché l'account di Netflix mi ha scritto. Che t'ha detto? Ciao, sì, ciao Marta. No, perché loro. Qui è Blockbuster. No. Ma loro sono stati veramente bravi perché praticamente hanno twittato in italiano. Cioè loro questa mattina, veramente io mi sono svegliata con un occhietto attorno alle 7:30 di questa mattina. Uno si sveglia e pensa subito a Netflix. No, uno si sveglia e guarda la posta, no? Quando sì. A tu mezzo... la posta, non i social network, non Twitter. No, io vabbè, prima guardo email. No, perché guardo l'ora. No, perché guardo l'ora sul telefonino. Ah, ok. E la prima cosa che mi appare la posta e c'era un comunicato di Netflix. Ah, e che ti diceva? Che arriviamo. Ufficiale, arriviamo in italiano. Io non l'ho ricevuto. Vabbè, hanno scritto a me. Chissà perché. Consumatrice illegale. Ma non è vero. Ti volevano subito riportare nella legalità. Ma tu pensa se queste cose devi dire. Loro l'hanno scritto in italiano. Buongiorno con la bandiera italiana. Sì. Ora è ufficiale. A ottobre Netflix arriva in Italia. A proposito, come si dice binge watching in italiano? Scorpacciata. Io proporrei no. Io direi maratona. Maratona. Sì, anche. Mi faccio una maratona, dice. Va beh, bene. Sì, perché io devo dire che non dico binge watching, mi faccio una maratona. Questo weekend maratona. Mi faccio una maratona. E... senza alzarsi dal letto, quelle lì, no? Tutte 13 puntate di Scandal di fila. Esatto. E quando io ho scritto stamattina, ho twittato. Lo dico, autociti, siamo proprio. Sì, no, perché ho scritto traffico, Marta, così. Leggi tutti i romanzi che puoi, vedi tutti gli amici e vai a cena con tutti gli ometti perché da ottobre arriva Netflix e ciao. Ho scritto così. Ciaone. E Netflix US mi ha risposto. Ah. Li potrai invitare tutti da te per delle maratone infinite. Ma no, è tutto concordato. Ma no, dai, è tutta una roba concordata. Ho riso come una pazza, dai, la risposta. Ma sei diventata amica di Netflix. Cioè, hai che un Netflix rapporto... mi dice di portare tutti a casa. Non prendetela alla lettera perché non no, ci perché? State tutti. Ma sì, Vimercate si arriva facile a Vimercate. Sì, detta, all'estero. Chi invece guarda le cose... Allora, no, dai, guardiamocela alla radio. Così non c'è tempo. Ah, ma mi piace la psicologia, ma no, perché guardo preoccupata l'orologio. Sì. Daniele Bellasio che cerca la psicologia tra scaletta e diretta. E diretta. No, allora, no, dai, ascoltiamocelo, mostriamola alla radio, perché io cercavo di ricordarmelo, non me lo ricordavo questo video, meno male che mi ha aiutato Christian Goldoni che oggi mi ha detto l'ho trovato, quando i The Jekyll hanno fatto il video di quando guardavano le serie piratate. Mm-hmm. C'eri anche tu lì. Che però hanno detto che non era vero, loro non hanno mai provato, hanno immaginato che potrebbe essere così. Cosa immagino succeda tutte le volte che guardo una serie in streaming su un sito pirata? Ciro, comincia a fare i buffering e prendo le birre. Uh-huh. Ciro, che puntata? Meredith è la sua nuova sorella. Cosa succede realmente? Ciro, comincia a fare i buffering e prendo le birre. Uh-huh. Vuoi vincere 1 milione di lire? Oh. Clicca qui. No, scopri no, il segreto. Non mi interessa. Non mi interessa. Oh, nella tua città. No, complimenti. No, nella puntata. Ma fa gula. Così, c'era dai, un po' di interferenza. Cioè, vabbè, così con tutti questi servizi legali che ci sono già adesso e che arriveranno in autunno, saremo tutti. Sì, no, infatti, avremo in autunno tutto una scusa in meno. 17:15, 35. Bravo, traffico del villaggio, e poi abbiamo un ospite con cui festeggiare la vittoria. Il gufo è arrivato. Vabbè, parliamo di calcio. Tra poco. YouTube. Calcio, l'ho detto anche prima nel sabato del villaggio. Mi sembra di aver sentito dire che c'è una partita stasera. No, c'è già stata, già è già fatta? È scontato. Finita? Il risultato. Ah! Si sa già come va a finire, infatti noi già lo commentiamo. Allora, l'hashtag per questa sera di Daniele Bellasio è gufala. No, io gufo. Io ho gufo. Fatto cancelletto, io gufo. Perché dopo che De Bellis la scorsa settimana ha sdoganato che si può gufare, si può, dunque si deve. Quindi Daniele Bellasio non è un interista sportivo, un interista, è un interista tifoso. No, proprio perché sono sportivo, si tifa questa sera per la grande squadra blaugrana. Allora, comunque, questa sera ci sarà la finale di Champions League, sì, per chi magari fosse atterrato adesso, sì, da Marte. Per chi non lo sapesse. Esatto. Però questa settimana vorrei prima tornare su una partita che ha fatto discutere tutti. Sì. Una partita in cui hanno giocato cattivissimi. Sì. In cui se le sono date di santa ragione, hanno fatto dei falli tremendi, si sono augurati delle, sì, cose terrificanti. La riunione di condominio. Lascia perdere. La partita del cuore. Ma come? La partita, la partita del cuore tene. Tutti carini. Però per quando benefici c'è di mezzo lo Juventino, ma sentilo, ma sentilo. Allora, la partita del cuore, pici pici, tutti tutti per beneficenza. Ecco qua cosa è successo alla partita del cuore. Grazie anche a Gianni. Ma che c'è? Che c'è? Ma è successo, certo, credo, ha fatto un fallo a Moreno, credo, a qualcun altro del Nazionale Cantanti che l'ha presa bene. C'è un po' di polemica, c'è un po' di polemica. Anche Barbarossa, che è molto calmo, si è un po' innervosito. Se a volte dobbiamo anche ricordarci i motivi. Oddio, Ramazzotti si sta appiccicando con Barbarossa. Ah. Che brutta cosa. Un attimo, questa dai. No. Questo no, ragazzi. Senti, per alleggerire, per alleggerire. Beh, per alleggerire, era pupo, no? Che bei momenti, era insomma pupo, cercavano insomma di fare qualcosa per stemperare la tensione. Pare però che a Berlino per ora la situazione sia un po' più tranquilla, per ora speriamo che vada così. Ci colleghiamo con Berlino, andiamo a sentire com'è il polso della situazione. Ancora buonasera Dario Ricci, Dario. Ciao ragazzi. Questa ciao è la partita del cuore, questa settimana se ne è parlato tantissimo. E invece tu che cosa mi dici? No, diciamo una finale della Champions non è così pericolosa come la partita del cuore, fortunatamente. Quindi direi che il clima in città è davvero, davvero bello, piacevole. Una Berlino in cui temperature intorno ai 30 gradi che diciamo sicuramente non favoriscono l'animosità, diciamo così, però clima molto bello in città fra le due tifoserie, si preannunciano delle coreografie davvero spettacolari, soprattutto da parte della curva catalana. Quindi ecco, proprio in questo momento il pullman dove sono sta muovendo i primi metri verso l'Olympia Stadium. Sarà un viaggio lungo, ma anche questo fa parte delle emozioni della vigilia. Ma si vedono più juventini o più blaugrana in giro? No, decisamente più blaugrana, anche perché loro hanno questa abitudine proprio di tante tifoserie di avere la maglietta della squadra d'ordinanza, no? Mentre gli juventini, a molti sono anche in borghese, diciamo così. Per cui sì, il colpo d'occhio è decisamente più blaugrana. Beh, allora facciamo per par condicio a casa di uno juventino. Sentiamo come sta vivendo. E starà già festeggiando. Ma sentilo il gufo. Buonasera Cristian Rocca. Buonasera Cristian, ma lo senti? Allora, senti Bellasio cosa che si gufa? Prova ad aver vinto il triplete, ma Cristian? Sentilo. Intanto uno che gufa e tifa per la squadra avversaria è cinico, che dice che non ce la potremo mai fare, cose di questo tipo. Se lui dice che la Juventus ha già vinto è semplicemente una scontata erotica, perché non vede la partita allo stadio. Comunque io non sono a casa mia, sono a Berlino anch'io. Sei a Berlino. Vedi, è partito, certo. È andato a Berlino. Vorrei anche precisare che i gradi non sono una trentina, i gradi sono 33, esattamente quanto. Sei 33 sul campo, sì, sul campo. Esatto. Mistico, sì, mistico, Cristian. Beh, ma no, ma Marta, perché loro c'è una diatriba, poi te la spiego nell'intervallo. No, lo so. Io guarda, poi tra l'altro, invece questa cosa qua mi fa arrabbiare, perché la giustizia è importante, basta, dico solo questo, non c'entra il calcio. Oh, mi piace la cagnola. Cristian, ma qua, di fronte, sì, a questi gufi cosa dici? No, guarda, noi abbiamo la serenità dei giusti, cioè siamo tranquilli, abbiamo passato un quinquennio, un lustro straordinario, vincendo ogni anno in campionato, vincendo coppe italiane, coppe, supercoppe, eccetera, eccetera. Siamo qui, giochiamo contro una squadra nettamente più forte della nostra, siamo in gita a Berlino e per noi è una grande, straordinaria serata di Senti, e altri guarderanno in TV. Come certo, io la guardo in TV con Rocco stasera. Senti Cristian, tu che sei stato un Allegri maniaco della primissima ora, sì, cosa ne pensi? No, ovviamente sono ironico, eri un po' scettico all'inizio. No, diciamo che io esattamente come sono scettico per stasera, e poi quando il calcio si gioca sul campo, non è chiacchiera da interista o da romanista. e io ero scettico perché ero una vedova di Antonio Conte, ma anche dalla prima partita del campionato ho lanciato l'hashtag Allegrimania, che ogni domenica, diciamo, ha caratterizzato i nostri pomeriggi, le nostre serate, caro Daniele. Mamma mia, due ragazzini. Possiamo posso tornare dire? A parlare con un giornalista. No, serio. Allora, a proposito di hashtag, sì. Sono stati creati, e questo ce l'ha detto Reputation Manager, più di 200 hashtag per commentare la vicenda della Juve verso la finale. Però io gufo, com'è il tuo? Io gufo. Io gufo non c'è tra i 200 hashtag monitorati. Aspetta, da crescere. Reputation Manager. I top 5 sono Juve, 39.614 tweet, e poi originale, devo dire che sono originali gli juventini. Mamma noi mia, abbiamo Amala da 10 anni, loro c'hanno ma Juve. Proprio inutilmente vabbè. Cattivo, quasi divento quasi juventina questo pomeriggio. Hashtag se andiamo in finale, hashtag road to Berlin, perché nel mese di maggio i tweet sulla Juve sono stati 46.288. L'ondata dei cinguetti è iniziata ovviamente il 4 maggio, non il 5 maggio che è un'altra roba. Dai, il 4 maggio prima della semifinale con il Real Madrid. Il picco il 28 maggio con 41.751 retweet, il messaggio più retweetato quello di Niccolò De Marchi, che ha postato una sua foto di Road to Berlin. In questo momento, tra l'altro, mi è apparso un avviso di Periscope di Giulio Base, che anche lui che Berlino, sta trasmettendo lui, in inglese, da Berlino. Io vorrei però farvi sentire una cosa molto carina che è successa. Ah, questo bello, sì, sì. Carina, nonostante conferenza stampa. Dai, umanizziamo sì. Un po', umanizziamo un po'. Molto Bonucci teneri. E Buffon, conferenza stampa, che hanno raccontato un aneddoto molto carino che riguarda i loro bimbi. Lorenzo stamattina mi ha detto, quando sono uscito di casa, mi fa: babbo, dove vai? E vado a Berlino. E perché? Perché c'è babbo deve andare al lavoro, deve andare a giocare. Ma uffa, ma io voglio andare al mare. Ho detto: guarda, dopo domani ti farò partire insieme a mamma con un bel regalo, quindi spero di e farò di tutto per accontentarlo. Ma sì, nel senso che ho un tifoso, un figlio che è molto tifoso di Messi e l'altro molto tifoso di Neymar, per cui saranno un po' combattuti secondo me, però alla fine mi hanno detto che se dovesse andare male saranno molto dispiaciuti per la Juve, perché alla fine sono tifosi della Juve, ecco. E avrebbero preferito in finale un'altra squadra tra Manchester City o Real Madrid, ecco, mi avevano chiesto che avrebbero preferito una finale così. Beh, dai, carino, dai, adesso basta gufare, basta metti ordine, manca, Marta. Manca poco. Dario, allora, quali sono le cose da sapere in attesa di questa finale? Cioè, chi vince? Ma dai, Dario, cosa c'è da sapere? Beh, le cose da sapere sono tante, nel senso che sicuramente una delle due, chiunque vinca stasera ci sarà un altro triplete, perché anche il Barcellona è in corsa per il triplete e nel caso dovesse vincere sarebbe il secondo della sua storia, quindi insomma è incredibile a dirsi, ma c'è anche chi fa meglio dell'Inter. E poi insomma sarebbe il primo trofeo internazionale per Luis Enrique e Max Allegri, che sono esordienti al Gran Ballo. Chissà, forse l'ultima partita sicuramente di Xavi col Barcellona, ma chissà, forse anche di Pirlo, perché l'ha detto, se dovesse andare in un certo modo potrebbe anche pensare di chiudere in bellezza, per cui... No, mi spiacerebbe molto perché mi piace assai. Sì, ma comunque anche la Juve farebbe meglio dell'Inter, perché avrebbe vinto anche lo scudetto di Serie B che l'Inter non ha mai potuto vincere, quindi sicuramente nel palmarès. Beh, tremendo. No, devo dire che poi tra l'altro prossima finale di Champions sarà a Milano e è un peccato che diciamo l'Inter non si sia iscritta neanche al ballottaggio. Hai capito Dario Ricci? È un peccato, hai ragione. Persa. È vero, lo so. Che poi avendo qualche pomeriggio libero e serata libera in più si gode del cinema e del teatro, però non vi facevo così intellettuale. Hai sceso in campo anche Dario Ricci. Lo sento un po' emotivamente coinvolto. Dai, lasciamo l'ultima parola invece al nostro super tifoso Christian. Dai, che facci poi... un pronostico, Christian. Dai. Allora, adesso non ti preoccupare, Christian. L'ho già fatto, ecco. Vince il Barcellona. Barcellona, siamo tranquilli e sereni. Adesso vado a fare una gita alla porta di Brandeburgo per salutare e ricordare le vittime del comunismo degli anni, insomma, che sono state liberate poi nell'89. E siamo qui, vediamo una bella serata di sport e vincerà la migliore, come sempre. Ma sì, quindi poi c'è la birra buona, si mangia comunque bene, c'è un'atmosfera bellissima. È vero che si vedono tanti tifosi del Blaugrana con la maglietta girare, ma anche tanti della Juventus, stranamente, perché non è una nostra tradizione. È davvero una bella giornata, ecco. Il fatto che ci siano 33 gradi che ricordano i 33 scudetti della Juventus è, diciamo, una cosa che aggiunge 34 con quello di B 34, perché no, così a me non continuano a non tornare i conti. Io continuo ad avere dei conti diversi in testa, ma sì, basta, ma con questo calcio in Italia. Basta con questo calcio, perché sennò ci facciamo a botte, no, e poi Christian deve tornare. Buona partita, ecco, a tutti. Allora, lui continuerà a gufare, io invece non me la sento, quindi guarderò con grande serenità. È un modo serenità per essere protagonisti. Non si arrende. Grazie a Christian Rocca, grazie a Dario Ricci, grazie a entrambi. Quindi entrambi buona partita. E buona serata berlinese, comunque vada, presto. Comunque vada, buona serata. Grazie a Dario, buon lavoro a Dario si Ricci, che questa sera. No, sì, però, mamma mia, ridere, pesante, è un modo per guardare. Se no, noi tifosi delle altre squadre cosa facciamo? Invece così c'è un po' di commenti. Invece di rosicare, Gufi e rosicone. La sera Gufi, la mattina rosicone. L'ho già sentita bene, questa deluzione, ma non pausa. Mi ricordo. Sì, una piccola pausa, perché poi abbiamo parlato tanto di musica in questo Sabato del Villaggio, ma dai, ci sentiamo già in estate. Ma è vero con che vai a sentire il volo? Ma dai, ma sì. Ma io non ci potevo dai, credere vieni quando con me, vieni con me, andiamo il volo? A sentire il volo. Dai, ti porto a sentire il volo. Vado Daniele da Giovanotti, preferisco. Ah, vabbè, insomma, dai, ci risentiamo tra poco ancora con Radio Tube per parlare appunto di musica. Radio Tube. Rieccoci insieme. Adesso però fai un po' più il bravo, perché veramente sul calcio Daniele Bellasio si è un po' scatenato. Ma no, ma si fa per scherzare. Intanto sai che Serena Williams ha vinto il Roland Garros. Che brava Serena Williams. Terzo, peraltro, sì. Che brava. Io non ci litigherei mai con Serena Williams, perché secondo me mezzo diritto con la sua manina e mi fa volare. Un atleta sportiva. Accidenti, braverrima. Ma dobbiamo parlare di musica. Voltiamo pagina dallo sport alla musica. Perché questa settimana ti è venuta voglia di parlare di musica? Ma perché noi l'anno scorso avevamo fatto un po' i nostalgici, avevamo detto perché non riportate il festival. Io prima ne ho parlato con Max Pezzali, che gli ho detto ma adesso d'estate i cantanti non hanno più niente da fare. Ecco, però poi ci ho ripensato. Già ripensato? No, nel senso che forse eravamo troppo nostalgici, perché scanalando l'altra sera ho guardato quello nell'Arena di Verona, quello dove c'erano Baglioni e Morandi. Anch'io avevo notato che Morandi su come strada diceva facendo prima Chiara di Giambattista tra le parole che non si ricordava. Ma possiamo dire Win Music Awards, non ecco, è che è, non era male, cioè è però una sera sola, però tu dici come alternativa. E poi dopo c'è Amici, insomma. Comunque la musica un po' in televisione si è reinventata, come peraltro si è anche reinventata con i nuovi mezzi strumenti, iTunes, Spotify, quelle e quindi cose basta lì, non hai più nostalgia del Festival Bar. No, nel senso che la musica mi sembra una di quelle cose che tutto sommato ha saputo adattarsi alle nuove tecnologie più velocemente. I cantanti guadagnano bene facendo i concerti, un po' meno facendo i anzi dischi pochissimo, poi, anche con lo streaming. No? Esatto, tutte queste cose qua. Insomma, si è reinventata. E quindi volevo chiedere a qualcuno che ne capisse qualcosa. Però aspetta, ma dai, di no, non bruciare le tappe. No, non bruciare le tappe, perché no, tu hai citato Amici. Sì. Hai finito Amici ieri sera? Ho letto con che, un discreto successo. Sì, cioè, tipo che Saviano ha fatto il 50. Tutti hanno visto Saviano. Beh, peraltro quasi, parlando di cose molto importanti. Allora, andiamo per ordine. Intanto, chi avrà mai vinto Amici? Questo lo ignoro, devo essere sincero. No, questo l'ho perso. Questo lo ignoro. Perché sarà una cantante piccola? No, no. Un gruppo. Non il volo, perché no, no, perché abbiamo no già dato. Poi quelli erano di un altro talent. Hanno vinto i The Colors. Ma sentiamo il momento epico. Dai, sentiamo Maria nel momento epico. Mi piace. Allora ragazzi, fronte a LED e carte. And bad mistakes sente solo l'urlo. Hanno vinto i The Colors, in particolare ha vinto Stash, perché anche Maria, quando si è lasciata andare, dice vince Stash perché è il frontman, è il cantante, sì, piace tanto, è un gruppo con un forte leader, con dire un fortissimo questo. Leader, chi c'era ieri sera? Beh, allora noi andiamo subito a sentire com'è stata questa vittoria da uno dei miei esperti preferiti, critico musicale del giornale Paolo Giordano. Buonasera Paolo. Eccomi, buonasera. Posso dire una cosa, Paolo? Sì, ciao. Che allora, per una volta il vincitore annunciato, e secondo me quello che se lo meritava di più, ha vinto. Ma anche secondo me, adesso si può dire ovviamente, ma anche secondo me il bagaglio musicale di Stash and the Colors è superiore, insomma, perlomeno più eclettico di quello del concorrente, del deuteragonista Briga. Ma non era così sicuro che avrebbe vinto, sai? Perché insomma c'erano molti segnali che invece favorito fosse Briga. Alla fine poi si è dimostrato che i voti hanno premiato Stash, anche perché ha fatto, secondo me, essendo il televoto ieri sera la vera chiave del successo, più del giudizio della critica o di qualsiasi altra possibile valutazione. Ieri i Colors hanno fatto una serie di canzoni e di performance completamente inattaccabili, e quindi questo ha portato una quantità di voti impressionante. Pensate che c'è stata, durante un'esibizione, questo lo ha rivelato Mediaset, durante un'esibizione di Stash sono stati 400.000 tweet. Beh, cioè, certo. Ragazzi, quando ci sono dei riscontri così, si capisce che in quel momento il pubblico sta reagendo in una direzione piuttosto che in un'altra. E non sono stato io personalmente molto soddisfatto, ho provato a dirlo, ma non c'era possibilità, perché insomma poi il giro di commenti ha, in un certo senso, è per forza limitato dalla quantità di tempo. Io non sono stato molto soddisfatto da come si è comportato, tra virgolette, Briga ieri sera, e credo che quindi alla fine, anche nella finale, il risultato sia giusto. Beh, tra l'altro, lo dicevamo, a numeri 53,26% di share, sì. Il picco in chiusura di puntata, quindi diciamo numeri abbastanza sanremesi. Beh, sì, se dopo Sanremo quest'anno credo che Amici sia il programma, se non sbaglio, che ha come media e anche come, insomma, in conclusione, come picco finale, la percentuale più alta. Ti chiedo subito come la vedresti, sì, una De Filippi a Sanremo. Secondo me già un ticket Conti De Filippi sarebbe... Ma guarda, lei stanotte dopo la conferenza stampa, e qua faccio una parentesi che è abbastanza importante, noi siamo giornalisti e siamo abituati insomma a vedere magari gli artisti o i conduttori TV dopo il concerto, oppure dopo il programma, un po' stanchi, un po' in qualche modo magari appassiti, tra virgolette. Ieri sera De Filippi, alle 2 circa, dopo 4 ore di diretta, ha fatto un incontro con i giornalisti, e i più stanchi erano i giornalisti. Cioè, ma lei è bionica comunque, da questo punto di vista ha una lucidità che onestamente ha una presenza, è una cosa che se uno lo dice sembra che sia per forza di Cicisbe o in qualche modo uno che bacia la pantofola, ma non è così, si dovrebbe riconoscere da parte di chiunque. Ieri sera lei era la più lucida tra tutti quelli che hanno partecipato all'incontro con i giornalisti. Sto per fare una battutaccia, conoscendo i giornalisti che c'erano, però non c'è. In effetti, anch'io condivido, ma non... No, però essendoci anch'io, capisci? Non potevo. No, ma perché poi la forza della De Filippi, che lei conduce rilassata, conduce come in surplus, come si dice. La cosa, guarda, hai ragione Daniele, ieri sera è iniziata la puntata, c'è stato tutto il coro, insomma, il discorso di Sabrina Ferilli, la canzone cantata da tutti insieme, eccetera. Poi è entrata lei e ha detto, beh ciao, allora cominciamo. Senza nessun preambolo, niente. Cioè, è ovvio che poi alla fine si risparmia, no? Anche perché lei, come insomma, insegnava anche in qualche modo Italo Calvino, la vota è riduzione. E quindi è totalmente capace di scompare. Arrivare al punto. Esatto. Io vorrei tornare su questa cosa che hai fatto notare, Daniele, Roberto Saviano. Abbiamo anche un brevissimo estratto di un momento di Roberto Saviano d'Amici, eccolo qua. In questi anni io ho identificato la mia vita, in questi anni un po' complicati, con i libri, cioè dove c'erano i libri lì sentivo casa mia. E forse è proprio per questo che ho scelto oggi di portare questo libro che quando ero ragazzo mi piaceva, ragazzino mi piaceva tantissimo. Beh, adesso io interrompo questo Roberto Saviano, che noi facciamo un po' sfumare perché l'intervento sulle notti bianche era monumentale, ha fatto comprare a tutti il libro. Daniele, dicevi che a te... No, intanto è un genio uno che riesce a passare ad Amici la sera prima e alla Repubblica delle Idee di Repubblica il giorno dopo, più o meno una roba di questo già... Quoto Bellasio. No, è da Jane. Poi io non capisco, è stato anche criticato, ma cioè, questo poveraccio non si può dire, perché comunque ha avuto successo nel lavoro, anche se fa una vita complicata per altri punti di vista molto seri. Ma va a raccontare i libri nel posto dove ci sono i ragazzi, dove alle persone che poi forse vanno anche a comprarli. Ma che c'è di male? Ma io su questo sono d'accordo, e il fatto che il giorno dopo aver parlato appunto di Notti Bianche di Dostoevskij, quel libro per la prima volta credo nella sua esistenza, dal momento in cui è stato pubblicato, è entrato tra i primi 5 di iTunes, vuol dire che non solo Amici ha una piattaforma recettiva, di ascoltatori recettiva, ma che Saviano è un veicolo credibile da questo punto di vista. E io in questo senso trovo che la sua partecipazione ad Amici abbia dato moltissimo ad Amici e anche, devo dire la verità, a lui. Ma anche se ieri sera io intervento, forse per l'ora tarda, forse per l'argomento non proprio di primo pelo, ieri sera a me personalmente non ha particolarmente emozionato, mi sarei aspettato qualcosa di un pochettino più scoppiettante. Ma nel complesso, nelle 4 partecipazioni che ha fatto durante questo serale di Amici, Saviano ha fatto capire esattamente come fece, perdonatemi l'accostamento che veramente può essere irriverente, ma non lo è per quello che intendo io, come fece Busi tanti anni fa. Esatto. Cioè, e portava la cultura, che poi uno può condividere o no, può essere la cultura che scegli o che non scegli, ma certo, in ogni caso porti la cultura a dei ragazzi che sono lì per stash. Ragazzi, è così, è come se io quando ero ragazzino e andavo a sentire gli ACDC, qualcuno mi avesse spiegato che cos'era le lezioni sulla leggerezza di Calvino, visto che parlavano di Calvino. Secondo me è una cosa... Ma andavi davvero a sentire gli ACDC? Ah beh, ma tu hai qualche dubbio su Paolo? Scusate, adesso qui faccio outing, anche se l'ho già fatto, però faccio outing. Primo concerto della mia vita. Settembre 1984, stadio comunale, ahimè, fu comunale di Torino, perché non c'è più. ACDC, Motley Crue. La sera del mio esame di preparazione. Grandissimo, grandissimo. Io sono di Alessandria e mentre facevo l'esame, sostanzialmente me ne fregavo. Questo che, se mi ascolta qualcuno che è stato... Ma l'hai passato poi l'esame? L'ho passato. Ah, ecco, sì. Bene, importante. Però l'ho passato perché Angus Young quella sera ha suonato benissimo. Straordinario. Paolo, io però vorrei tenerti ancora qualche istante, perché adesso abbiamo le informazioni sulla viabilità, però siccome Daniele aveva iniziato questo blocco facendosi una domanda sulla musica in televisione, soprattutto giusto, annunciando che non gli manca più il Festival Bar. No! Voglio sapere da te. È un altro outing. Ecco. Allora, lasciamo la suspense, come dicono in America, facciamo il cliffhanger, facciamo il finale sospeso, perché diamo la linea al traffico del villaggio e poi saremo ancora insieme. Grazie di averci seguito e buonanotte a tutti. Vince Star. YouTube. Intanto la mia timeline su Twitter si sta riempiendo di maglie bianconere e di fotografie di amici che mi postano birre, perché non so, saranno tutti a Berlino stasera, sì, sono tutti a Berlino che bevono birra e non gufano come Daniele. Allora, siamo partiti con la premessa, secondo cui l'anno scorso dicevamo: ah, come ci manca il Festival Bar. E quest'anno hai cambiato idea. Non è che ho cambiato idea, è che ho visto che, insomma, in televisione la musica c'è, forse essere nostalgici è esagerato. Il Wind, che si chiama? Music Award, l'ho visto l'altra sera con Carlo Conti, Vanessa Incontrada, era una specie. Poi l'Arena di Verona era stupenda, poi c'è Amici, poi ci sono altre trasmissioni divertenti, poi i concerti, poi iTunes funziona, poi Spotify, insomma la musica ha saputo adattarsi al nuovo mondo più velocemente di altri campi, e quindi volevo sapere se era solo una mia sensazione, se la pensate un po' come me. Allora, a me manca ancora il golfino sulle spalle, il ghiacciolo di Christian De Sica e Jerry Gale, la Savoia di Mare. No, mi manca tutto, e quindi mi manca anche il Festival Bar, ma no, ma sono le mie estati da ragazzina. Paolo, tu cosa ne pensi, Paolo Giordano, che è con noi in collegamento? Io in realtà la penso come Daniele, nel senso che la musica ha avuto la capacità di rigenerarsi dal punto di vista della comunicazione, insomma, della fruizione del pubblico, molto più velocemente di quanto stia facendo ad esempio l'editoria o di quanto stia facendo la televisione e anche il cinema in un certo senso. Cioè la musica 5 anni fa era il carro estinto in qualche modo, adesso siamo in un periodo in cui credo nella storia dell'umanità l'uomo non abbia mai ascoltato così tanta musica, e ovviamente negli ultimi 60 anni l'uomo non ha mai visto così tanta musica in televisione. C'è dappertutto, c'è a livelli molto alti, perché onestamente i Wind Music Awards l'altra sera, possono piacere o no, sono stati uno spettacolo godibile da chiunque. Poi se uno è pregiudiziale, se uno ha degli atteggiamenti per forza negativi, allora lo critica, ma in realtà sono visti i cantanti che sono piaciuti di più durante l'anno, in più con l'apparizione per la prima volta in qualche modo di dopo Fazio, di Morandi e Baglioni insieme, e uno a casa si è goduto uno spettacolo direi innocuo ma piacevole. Allora basta nostalgia, va bene, dai, farò la brava. Nostalgia, ma basta nostalgia, non perché la nostalgia sia sbagliata, ma perché se uno ama la musica deve anche amare, secondo me, almeno a me capita così, la capacità della musica popolare leggera di leggere ciò che sta succedendo. Cambiamenti, certo. Il cambiamento. E noi attraverso la musica ci rendiamo conto di che cosa sta cambiando. Allora, se ieri sera una quantità, 1.700.000 tweet di ragazzi durante Amici, vuol dire che questi ragazzi nel loro futuro ascolteranno musica, e ascolteranno la musica proposta così. E chi siamo noi per fermare questa cosa? Possiamo valutarla, possiamo criticarla, possiamo negarla, possiamo, ma non possiamo fermarla. Paolo, sono curioso di sapere però se sei anche tifoso, perché sai che noi ovviamente stiamo... No, ho sentito da Bellasio che forse non è il caso che io ripeli per chi. È l'invasione degli ultracorpi oggi. Ma almeno perché... in regia c'è qualcuno? No, in regia Cristian Goldoni è laziale. Roberto, adesso glielo chiediamo. Dimmi una cosa, questo però è una mia... Poi sei anche di Alessandria, questo esatto, mi dispiace. È una mia scusazione non petita, però non è un'accusazione manifesta, è proprio una cosa. Allora, io, mio padre, sono di Alessandria appunto, mio padre ha fatto il contratto di cessione di Gianni Rivera dall'Alessandria al Milan. Accidenti. E quindi però io sono nato in una famiglia in cui si parlava solo di Milan, e se uno è di Alessandria allora c'erano tre possibilità: o ti favi il Milan, o ti favi il Toro, o ti favi la Juve. E per una coincidenza, a 8 anni non ti rendi con 9 anni, non ti rendi conto di quali siano le rivalità assolute, ho cominciato a tifare la Juve. Lo so. E poi ho fatto l'università a Torino, ho fatto il militare a Torino, e adesso però sono uno juventino dormiente. Cioè, una vero... cellula dormiente. Esatto, il vero juventino poi alla fine. Cioè, io sto zitto se la Juve perde, ma esulto se vince. Mi piace. Vabbè, siamo 3-1, 3-1, 3 juventini a 1 in questa puntata. L'hai voluta tu, tutti questi juventini. Tutti qua, va bene. Paolo, allora ti lasciamo, non so se questa sera guarderai la partita. O sono in redazione, spero di finire in tempo per poterla guardare. Ah, ecco, tanto ciao, buona Paolo, serata. Un abbraccio forte, speriamo ad averti presto in studio, te lo dico sempre, prima o poi ce la faremo. Sì, ma ce la faremo. Un bacio grande, grazie. Ciao. Grazie a Paolo Giordano. Che bello aver avuto anche Paolo Giordano, prima Chiara Di Giambattista, insomma, un sacco di amici in questa, in questo sabato pomeriggio. No, vabbè, ma perché poi litighiamo, ma va bene così. Allora, quindi abbiamo finito? No, non abbiamo finito. Io volevo difendere Jovanotti, perché Jovanotti... Ah, vuoi parlare di Jovanotti? No, parliamo perché, scusami, Jovanotti, allora è stato Jovanotti. Processato in rete, perché ogni volta che in rete uno tocca quell'argomento lì, sì, no? Avesse detto, sì, ma voi nella vita fate tutto per soldi, non sarebbe successo nulla. Invece ha usato un altro tipo di frase, ha voluto dire che nella cultura, per esempio, può capitare di fare delle cose che sono professionalmente anche importanti, ma non pagate in quel momento. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo questo intervento, una piccolissima parte di questo lunghissimo intervento all'Università di Firenze di Jovanotti con i ragazzi, l'abbiamo preso dalla sua Giova TV, e ascoltiamo un brevissimo estratto di questo intervento che ha davvero creato un sacco di dibattito questa settimana in rete. Ultimamente ho fatto dei festival negli Stati Uniti, ho partecipato con la mia musica a dei festival importanti, Bonnaroo, e un altro che si chiama Lollapalooza in Argentina, un altro negli Stati Uniti che, ad Austin, insomma cose molto grandi, centinaia di migliaia di persone. E tantissimi ragazzi che lavorano, e allora mi chiedo, ma chi li paga questi qui, tutti questi? Questi no, sono volontari. Sono volontari. Come sono volontari? In che senso sono volontari? No, nel senso che per 3 giorni decidono di fare questa cosa come servizio, però ma non è una cosa di beneficenza questa qua, nel senso che è un'industria, cioè il Festival Bonnaroo è un'industria con un imprenditore, con un sacco di marchi, di sponsor, e questi accettano di fare il lavoro gratis? E la risposta è, beh sì, comunque vivono, stanno dentro la musica, fanno un'esperienza, vivono... Non so, un dibattito, perché dice, ecco, spinge a lavorare gratis in questo mondo in cui nessuno... Ma no, a lavorare, spinge a fare anche qualcosa anche non per soldi. Cioè, non è che nella vita facciamo solo cose per... Tu guarda, la mia riflessione però è stata che effettivamente io ho lavorato tanto gratis all'inizio. Ho Ma lavorato tutti, tanto l'hanno gratis fatto tutti. All'inizio. Però adesso forse ci sono talmente poche possibilità che non è detto che lavorando detto, gratis bisogna, poi bisogna ti si aprono davvero delle porte. Sempre gratis, né che bisogna lavorare gratis di default. Ha detto... Se serve per fare esperienza, per imparare qualcosa, entrare in contatto con persone, essere in un posto dove succedono le cose, ma è volontariato, ma non lo so, non ho capito. Sì, ma il problema sembrano è che adesso quei poi magari della rete per cui si parte. Quello sicuramente, però è che dopo che hai fatto esperienza magari poi vorresti che qualcuno certo, ti pagasse. Certo, ma lui non ha negato questo, no, ha detto certo. Che anzi forse serve anche. Tra l'altro dimostri anche delle doti se fai delle cose, non soltanto passione. Quando Bellasio si fomenta, si infervora tutto. Non vorrei allora, essere preso no, la lettera. Dai, allora per concludere con un sorriso, ma è arrivata una bionda dietro al vetro. Che guarda, ho perso un attimo la testa. Salutiamo Maria Luisa Chioda. Che bello che è venuta a trovarci. Allora, tutti. Concludiamo ma con una delle grandi frasi. Ma non possiamo parlare di chi c'era in quell'evento? Non possiamo, non lo so, non perché sa. Quella politica in questo periodo è un delirio. Ma non parliamo di politica. Allora, Ilaria D'Amico. Sì. Grandissima sì, Ilaria D'Amico. Stasera guarderà la partita, secondo me. Sì. Secondo me stasera Ilaria D'Amico guarda la partita. Dicendo, secondo stai me alludendo, guarda, stai no, alludendo. Perché le piace il calcio. Certo, guarderà la partita. L'altro giorno però si è un attimo distratta. Ha fatto la gaffe, secondo me. Sai che secondo me era voluto anche quello. Dici. Per me tutte le gaffe sono sempre volute. Noi la mostriamo alla radio, sì, giudicate voi. Già credo vista tutti. Beh dai, mostriamola ancora una volta sì, alla radio. Poi sì, ci sì. Dite cosa pensate di questa piccola gaffa di Ilaria D'Amico. Nel segno del cambiamento, del rafforzamento del maschio, del marchio. Evviva il rafforzamento del maschio! Lì, la persona che non possiamo nominare, che è anche poi il Presidente del Consiglio, ha detto, glielo diciamo noi a Gigi, qualcosa del genere. Ah, così, simpaticone. Secondo me l'ha fatta apposta per mettere la notizia della nuova livrea di quella compagnia di bandiera lì, su tutti vabbè, i siti. Vabbè, come sei dietrologo, comunque, come una puntata corre bellissima, il tempo, bellissima, quando peccato, tra i Juventini a 1, 3 a 1. Non abbiamo ancora scoperto, Roberta, in regia, per chi tifa, non lo so, non... No. È interista, ce l'hai fatta, hai rimontato all'ultimo. Dai, è il momento di salutare tutti. L'appuntamento al prossimo sabato, col sabato del villaggio, poi ancora con Radio Tube, con 5. Daniele Bellasio. E niente, un abbraccio a tutti, alla prossima buona settimana. Buona serata a tutti.